24 mattino di Alessandro Milan. Siamo qui, buongiorno cari ascoltatori, 7:21 minuti, siamo su Radio 24 in diretta fino alle 9. Siamo su Facebook, la nostra pagina 24 mattino, ci trovate anche su Twitter, io sono così, @AlinoMilan. Un giorno magari vi dico anche l'account di Peter Bescapè, il nostro alpino, dopo me lo scrivi, te lo dico. C'è anche la trasmissione su Twitter, @24mattino, insomma siamo multimediali, siamo pronti, alle 8:20 avremo ospite Antonio Di Pietro, leader dell'Italia dei Valori, reduce anche un'operazione al cuore. E poi di che parleremo? I matrimoni gay che fanno tanto discutere. Ieri sì, qualcuno titolava il giornale: hanno vinto i gay, l'Europa ci impone i matrimoni gay. Cercheremo di capire qualcosa, ma è un dibattito anche in Italia, no? Si è animato dopo che Alfano ha detto la sinistra porta i matrimoni gay. Rosi Bindi dal PD dice il matrimonio è solo eterosessuale. Insomma, questa tematica interessa, non interessa? Non ne parleremo alle 8:30. Ora andiamo a vedere cosa ci propongono i giornali in edicola. In questo giovedì 15 marzo le aperture sono quasi tutte dedicate al lavoro, sulle sue sfumature diverse. Contributi e anticipi, così cambiano le pensioni, così titola il Sole 24 Ore in apertura. Mentre il Corriere della Sera: così cambierà l'articolo 18. Certo, troverete anche una doppia apertura su quell'episodio terribile di cronaca, la tragedia in Svizzera con 28 morti, di cui 22 ragazzini, 12enni, reduci da una vacanza. Articolo 18, accordo più vicino, questo per Repubblica, ma anche strage in galleria dopo la gita sul pullman, muoiono 22 bambini. La Stampa: riforma lavoro vicina all'intesa sull'articolo 18, ma anche la strage dei bambini. I giornali, diciamo, accomunano con titoli più o meno di uguale impatto le due vicende. Lavoro: aumentano i fondi, è il titolo d'apertura del Messaggero. Lavoro: spunta un accordo sull'articolo 18 per il secolo XIX, ma anche a fianco lo strazio di una ragazzina piangente, il titolo La strage della settimana bianca. Mentre per altri titoli, ultimatum alle banche, così il giornale. La porno Rai va di notte, vittoria di Libero. Libero racconta questa vicenda che poi vedremo. Insomma, ha fatto ieri un articolo per dire c'è una fiction dove si vedono troppe nudità in Rai, su Rai 4, ed è stata spostata. Oggi sapremo chi difende i ladri, questo è il titolo invece del Fatto Quotidiano. Lavoro ai fianchi per il Manifesto. Omissione impossibile per l'Unità, invece, con la foto di Alfano che dice sosteniamo il governo Monti in opere e omissioni. Allora, intanto sul Corriere della Sera la casta non si fa mancare nulla. Sergio Rizzo, un'intera pagina, pagina 14, tagli impossibili ai consigli regionali. Già al Sole 24 Ore, tre giorni fa, lunedì, aveva raccontato di come le regioni stanno ricorrendo alla Corte Costituzionale per far fronte a una legge che imporrebbe loro un taglio dei consiglieri. Le trovano veramente tutte. Ma Sergio Rizzo parte dal raccontare la storia di Giovanni Di Giorgi, da 10 mesi, sindaco di Latina, che assapora il brivido dell'ubiquità. Ci vuole un fisico bestiale per trovarsi contemporaneamente nel municipio della sua città e a 70 chilometri di distanza, a Roma, sede del Consiglio regionale del Lazio. Lui, infatti, ha questa doppia carica e le leggi sono chiare: il sindaco di un capoluogo di provincia non può essere allo stesso tempo consigliere regionale. Ci sono però regolamenti interni e, siccome i suoi stessi colleghi dovrebbero decretarne l'incompatibilità, le cose vanno per le lunghe. Nel suo caso poi c'è stato un ricorso al TAR contro l'esito delle comunali del 17 maggio 2011, quindi un'altra scusa provvidenziale per prolungare la melina in attesa della sentenza. Puntualmente è arrivata però la sentenza, una decina di giorni fa. Il sindaco di Latina è stato eletto regolarmente, ragion per cui ora non ci sono più scuse. Di Giorgi dovrebbe lasciare la regione e ovviamente i relativi emolumenti, con molta calma però. A oggi risulta ancora consigliere, nonché componente di ben 4 commissioni e anche sindaco di Latina, per l'appunto. Cariche incompatibili per legge, ma da 10 mesi lui sta così. Dai, inizia da qui Sergio Rizzo per raccontare poi la storia di 11 regioni, dal Lazio all'Umbria, che hanno fatto ricorso alla Corte Costituzionale rivendicando autonomia decisionale contro l'articolo 14 di un provvedimento voluto da Giulio Tremonti che imporrebbe ai consigli regionali dalle prossime elezioni un dimagrimento di 343 poltrone. Eccole qua dunque, i tagli impossibili ai consigli regionali. La legge obbliga a ridurre gli eletti, ma 11 enti fanno ricorso alla consulta. Lo trovate sul Corriere della Sera, pagina 14. Buon divertimento. Dopodiché vorrei andare un po' oltreoceano, dove c'è un dirigente importante della Goldman Sachs, che dopo 12 anni ha deciso di lasciare la banca e lo ha fatto in modo molto rumoroso. Ha preso carta e penna, ha scritto una lettera sul New York Times, e dunque sono dei giornali più diffusi al mondo, ha scritto un editoriale nel quale lui è il dirigente responsabile dei derivati in Europa, Medio Oriente e Africa, si chiama Greg Smith, cioè mica un funzionario di basso livello, cioè uno dei massimi dirigenti da Goldman Sachs, ha scritto: questo è un ambiente tossico e distruttivo che antepone i propri interessi a quelli dei clienti considerati come dei pupazzi. Che bello, i clienti sono solo dei pupazzi. Questo denuncia, ovviamente, questo pentito, la Goldman Sachs, il Sole 24 Ore con Stefania Arcudi e Mario Platero da New York. Goldman sotto attacco negli USA sull'etica. La denuncia dell'ex manager, cultura tossica, senza morale. I clienti considerati dei pupazzi, l'interesse dei clienti sempre più marginale nelle azioni della società, che pensa solo invece a fare soldi. C'è anche un commento in prima pagina di Luigi Guiso, dal titolo Il pentito di Wall Street, l'editoriale del giorno, Etica e mercati. Scrive Guido: Greg Smith, direttore esecutivo a capo della sezione di Goldman Sachs su derivati in azioni per Europa, Middle East e Africa, ha scelto di lasciare l'azienda accusandola di perpetuare una politica che antepone il profitto dell'impresa agli interessi dei clienti e può essere definito a tutti gli effetti il primo pentito della grande finanza. Come tutti i pentiti, le sue parole vanno pesate, le motivazioni circostanziate, ma alle sue dichiarazioni bisogna prestare attenzione, primo perché è un insider di rango e quindi informato del modo in cui si conducono gli affari nei segmenti di mercato in cui ha operato. Secondo, perché le cose che dice, se confermate, rivelano atteggiamenti assai diffusi nel mondo degli intermediari nel trattare il concetto di clienti, vale a dire immaginarli come altrettanti polli da spennare. A detta di Greg Smith li chiamavano Muppet, pupazzi. L'idea di fondo era che si poteva fare dei clienti ciò che si fosse voluto, usando le maggiori informazioni per vendere qualunque prodotto fosse conveniente per l'azienda, anziché per il cliente. Insomma, il pentito di Wall Street, ve lo segnalo, clienti come pupazzi, questa è la denuncia di un grande, di un alto dirigente della Goldman Sachs che dopo 12 anni dice: me ne vado da questo ambiente senza alcuna etica. E allora, alle 7:35 minuti, la riforma del mercato del lavoro è uno dei temi centrali sui giornali, certo dopo la frase sulla paccata di miliardi, pare che il ministro Elsa Fornero abbia un po' smussato i toni. Ieri sembravano tutti concilianti, su queste basi l'accordo si può fare. Insomma, c'è un aspetto tecnico del tavolo, e tutti i dettagli li trovate sul Sole 24 Ore, e c'è l'aspetto, se volete, politico proprio della trattativa che si sta tenendo, no? E qui gli umori vanno di giorno in giorno. Certo, l'altro ieri, dopo la paccata di miliardi, gli umori da parte delle parti sociali era bassissimo. Ieri invece un po' più di edulcorato ottimismo da parte del ministro Fornero, così possiamo chiudere entro la prossima settimana. Sta di fatto che i dettagli sono raccontati da Davide Colombo per quel che riguarda i dettagli tecnici. A pagina 7 la novità riguarda soprattutto, intanto, gli ammortizzatori, la dote salirebbe a 3,8 miliardi di euro, mentre per quel che riguarda l'articolo 18 è sempre più questa linea tedesca, della Germania, che sembra l'ipotesi sulla quale si sta spingendo il governo. La strada, racconta il Sole 24 Ore a pagina 7, che il governo sta studiando per mettere d'accordo le parti sociali e arrivare all'obiettivo di eliminare le rigidità in uscita del mercato del lavoro è questo. Un riferimento al modello tedesco, preso come base di lavoro La norma in Italia è quella in base alla quale il giudice intima l'azienda di reintegrare il dipendente nel posto di lavoro quando si ritiene il licenziamento invalido, quindi senza giusta causa, senza giustificato motivo. Se fossimo in Germania, invece, spetterebbe al giudice, con una maggiore discrezionalità, decidere se reintegrare il lavoratore oppure se dare a lui o a lei un indennizzo. Ecco, questa potrebbe essere la scelta del governo, scrive Il Sole, cioè andare a una maggiore discrezionalità del giudice, non più un reintegro in caso di licenziamento ingiustificato, ma una discrezionalità del giudice, cioè reintegro oppure un indennizzo. Mentre Claudio Tucci, a pagina 6, sempre sul Sole 24 Ore, racconta come potrebbe arrivare il premio di stabilizzazione. Per chi? Per quelle aziende che assumono a tempo indeterminato un collaboratore precario, arriva appunto il premio di stabilizzazione, mentre l'apprendistato punta a diventare il contratto dominante per l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Partite IVA e collaborazione a progetto verranno pian piano disincentivate anche dal punto di vista formativo. Comunque, sui temi collaborazioni, partite IVA, i voucher, la stabilizzazione, l'apprendistato, questi interventi sui contratti li trovate i dettagli a pagina 6. Sta di fatto che, certo, tutti hanno notato un ministro Fornero un po' più tranquilla nei toni. Secondo Il Fatto Quotidiano, a pagina 4, in una sorta di retroscena dal titolo Nervosismi, Monti spegne la miccia Fornero. Ci sarebbe stato proprio un vero incontro dopo la frase sull'ormai celebre paccata di miliardi. Pare che Monti abbia in qualche modo incontrato il ministro Fornero, e scrive Giorgio Meletti sul Fatto in maniera molto dura: dopo averla ripresa per avere frignato in una conferenza stampa, ecco la seconda volta in cui l'ha ripresa, dicendo praticamente: vedi di usare toni un po' più concilianti, altrimenti salta tutto. Questo per la riforma del mercato del lavoro. Chissà se Monti userà toni concilianti questa sera al vertice ABC, Alfano, Bersani, Casini. Guardate, leggere i giornali su questo riporta, lo so che è politica, politica pura, magari qualcuno è anche interessato, a me dà la sensazione di una noia mortale. Il vertice tra Monti e i leader, Casini che dice al PDL non fate bambinate, perché l'ultima volta è saltato il vertice perché Alfano l'ha fatto saltare all'ultimo. Alfano che dice sosteniamo il governo in opere, cioè quello che bisogna fare, e omissioni, cioè alcune cose, di alcune cose si può parlare, di altre no, se no è a rischio il governo. Si parlerà di che? Di giustizia, di Rai? Secondo il retroscena di Repubblica, Francesco Bei, a pagina 6, Monti chiederà una sorta di moratoria ai partiti, cioè fate una tregua elettorale, perché altrimenti, se passiamo un anno così fino alle prossime elezioni di rissa permanente o di battibecchi, ne va di mezzo la credibilità dell'Italia sui mercati e in Europa. Questo pare sia la linea di Monti. Vabbè, domani ci saranno i resoconti di questo imprescindibile vertice. ABC a Palazzo Chigi con Mario Monti, dalle 20. Segnalo due interviste interessanti. Il garante della privacy Pizzetti, colui che ha detto i cittadini non devono essere considerati mariuoli dal fisco, perché è proprio dei sudditi essere considerati così e non cittadini di un paese democratico, fa un'intervista a Repubblica. Antonello Caporale, pagina 11, lotta all'evasione di massa, ma sono inutili blitz a Cortina. E allora è un Pizzetti che dice: gli evasori sbagliano grandemente a brindare alle mie parole. Io dico agli italiani: badate che queste misure sono emergenziali. Però, dice Pizzetti, l'acquisizione dei dati sensibili è un processo delicato che va svolto con giudizio e prudenza. Mi sembra logico che ogni forma di indagine, anche la più pervasiva, sia permessa quando i redditi del contribuente vengono sottoposti a controllo. Io non ce l'ho con Befera, ho dato a Befera tutto l'aiuto possibile, ma mi è indigesta l'acquisizione quotidiana di tutti i dati bancari, anche i minimi di ciascun conto corrente, anche il più trascurabile. Acquisirli ogni giorno produrrebbe miliardi di operazioni, un traffico rischioso. Con questa estremizzazione del diritto alla trasparenza, si chiederà a un chirurgo prima dell'operazione cosa ha fatto di notte, che cosa abbia bevuto. Riguardo a Cortina, i blitz, dice Pizzetti, faccio soltanto prendere freddo ai finanzieri se li mando a pattugliare le strade di Cortina d'inverno. Se voglio controllare un SUV, clicco sul display che mi dà il nome dell'intestatario. Se invece decido di controllare Cortina, non ho alcun interesse a indagare sul SUV. Quello che non capisco è la connessione SUV-Cortina. Questa è la frase del giorno, da parte del garante della privacy. Che comunque dice la lotta all'evasione ha strumenti efficaci e non servono questi blitz. E dunque Pizzetti ribadisce in questa intervista attenzione alla invasività e pervasività dei controlli. La seconda intervista che vi segnalo è anticipata oggi dal Fatto Quotidiano a pagina 7, ma verrà oggi mandata in onda da Santoro. Parla per la prima volta davanti alle telecamere il figlio di Bernardo Provenzano, il capo della mafia. Sono fiero di mio padre. La verità processuale dice che mio padre è stato il capo di Cosa Nostra. A pensarci, a 20 anni dalle stragi, si sta parlando di revisione, dobbiamo riscrivere qualche verità a questo punto. Così parlò il figlio di Bernardo Provenzano. Studi da geometra, incensurato, dice: ho vissuto in un reality show. Essere figlio di una persona latitante per 43 anni vuol dire essere messo sotto controllo. Solo dopo la fine della mia latitanza è cominciata la mia rinascita, il contatto con la gente. Prima conoscevo solo pochi volti. E sui collaboratori di giustizia, dice il figlio di Provenzano, Angelo Provenzano, è un'anomalia tutta italiana questa dei collaboratori di giustizia, ma parliamo di uomini e si possono dare anche delle indicazioni sbagliate. In ogni cosa in cui c'è l'uomo c'è la possibilità dello sbaglio. Parla anche della possibile trattativa Stato-mafia. Dice Provenzano: mi sono imbattuto nella strage di Portella della Ginestra. Dopo 50 anni scopriamo che forse non è stata opera di un bandito, Salvatore Giuliano, ma di un pezzo dell'esercito italiano. Mi sembra che sia un copione che venga recitato la seconda volta. E non è su queste cose che si può fondare una fiducia incondizionata. Quando qualcosa parte dall'interno dello Stato, si rischia di perdere la fiducia. Chi sono per lei Falcone e Borsellino? Sono due vittime immolate sull'altare della patria, sono due vittime della violenza. Non usa il termine mafia, La violenza. E quando le viene chiesto: la mafia le fa schifo? Lui risponde: tutti i tipi di violenza mi danno fastidio. Avete capito la risposta? La mafia le fa schifo, il figlio di Provenzano? Tutti i tipi di violenza mi danno fastidio. Vabbè, se volete ancora leggere c'è Politica e Giustizia, qualche problema al Pirellone, qualche problema, sede della Regione Lombardia. Il nono, corruzione, un altro indagato del Popolo della Libertà, si chiama Gianmario, Angelo Gianmario. L'accusa, scrivono Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella a pagina 22 del Corriere della Sera, aver preso 10.000 euro per appalti sul verde pubblico. In realtà 10.000 euro li hanno presi, ma perché li hanno presi? Qui le cose li avrebbe presi, le cose si fanno più complicate. Sta di fatto che un altro indagato per corruzione in consiglio regionale e a Lombardia, mentre il sindaco di Bari Emiliano, che tuona io sono innocente, non c'entro nulla eccetera, finisce non perché indagato ma perché tirato in ballo dalla vicenda dell'arresto dell'imprenditore De Gennaro, ex consigliere regionale del PD, arrestato martedì e insieme ai suoi fratelli imprenditori per alcune regalie ricevute a Natale nel 2007, per la verità le ha ricevute il sindaco Emiliano, ma così come anche altri politici in Puglia, al sindaco ostriche e champagne. Vabbè, questo fa molto titolo, ma comunque ovunque sui giornali c'è scritto che Emiliano ricevette nel 2007 champagne, vino, formaggi, 4 spigolone, 20 scampi, ostriche imperiali, 50 noci bianche, 50 cozze pelose, 2 chili di seppioline allievi locali di Molfetta e 8 astici. Risponde Emiliano: sono finito in mezzo per un fatto giroscopico, cioè... Sì, sono fatti avvenuti una serie di anni, messi tutti insieme in un momento come questo è un massacro, ma sono fatti vecchi e non c'entro nulla. Vabbè, cari ascoltatori, dopodiché parlando di cose ben più serie, piuttosto e purtroppo tragiche, tutti i giornali raccontano questa strage che è avvenuta in Svizzera, dove un pullman che portava di ritorno alla settimana bianca una scolaresca di ragazzini del Belgio, questo pullman si è schiantato. In galleria ci sono 28 morti, 22 sono ragazzini. Beh, fa veramente specie leggere, e si fa fatica a leggere, vedere le cronache, vedere le foto di questi ragazzini che tenevano un blog. Ci sono le foto di loro festanti, sorridenti, sulla neve, poco prima di partire per ritornare a casa in Belgio. Scrivevano ai loro genitori: stiamo tornando, ci mancate, insomma le solite belle frasi che si dicono a quell'età. E poi tutto immortalato in questa immane tragedia. Vi voglio segnalare su questo qualche commento. Il primo è di Ferdinando Camon, scrittore, intellettuale, lo trovate sulla Stampa. Il titolo in prima pagina è Il dolore che non si può sopportare. Scrive Camon: non ci sono gradazioni alla disperazione, perché la disperazione è lo stadio estremo del dolore, ma se ci fosse una gradazione questo sarebbe il vertice, un'ecatombe di bambini sui 12 anni, vitali e festosi, che rientrano a casa dopo una settimana bianca in pullman e vengono falciati in un incidente assurdo. 22 muoiono sul colpo, altri vanno in coma, altri ancora sono feriti gravi. È una di quelle scene che non hanno risposte sulla terra, ti fanno alzare gli occhi al cielo. L'uomo non è fatto per sopravvivere alla morte di un figlio. La morte di un figlio è un capovolgimento della natura. E qui è avvenuto un capovolgimento innaturale della vita di decine di famiglie, delle famiglie a loro collegate. Non è umanamente possibile reggere questa piena di dolore. Nessuna delle esistenze toccate da questa tragedia potrà continuare come prima. Tutte le vite subiranno una deviazione, una stortura. Compiendosi in un attimo, la tragedia avrà conseguenze per sempre. Quando si dice figlio, non si dice tutto, perché un figlio cambia di significato per i genitori lungo le fasi della vita, e se c'è una fase in cui è più figlio, è questa, sui 12 anni. A quell'età i figli hanno ancora qualcosa di quando erano bambini, ma fanno già vedere qualcosa di quando saranno uomini, o le bambine, donne. E noi padri, amandoli a quell'età, li amiamo per quello che sono, quel che erano e quel che saranno, riempiamo la loro vita, e questo riempimento fa la nostra felicità. Loro lo sentono e ci fanno vedere che la loro vita è piena apposta per farci felici. Questi bambini tenevano un blog in cui annotavano le loro emozioni, in questa settimana bianca scrivevano: papà, mamma, siamo felici ma ci mancate. E insomma, il dolore che non si può sopportare, ma anche vi voglio segnalare ciò che il secolo XIX fa, e cioè una bella operazione di giornalismo, perché ripropone in quasi integrale un estratto del toccante reportage di Dino Buzzati che il Corriere della Sera pubblicò nel luglio del 1947, dopo l'affondamento di una motobarca ad Albenga, in cui morirono 44 bambini, una vicenda che si può assimilare, insomma, a quella che è avvenuta ieri. A pagina 4 e 5 del secolo XIX trovate questo. Così come vi segnalo Davide Rondoni, a pagina 2, l'editoriale di Avvenire, scrive Rondoni: ora ci vuole la delicatezza, dopo che l'abbattimento, la disastrata pietà e la ferita acuta di un duro sbigottimento ci sono arrivati addosso con la notizia dei bambini morti nell'incidente in Svizzera. Ci vuole la delicatezza per noi che assistiamo da lontano e però ci sentiamo vicini. Tornavano da una settimana di vacanza promossa da un'associazione cattolica, un colpo duro, un aprirsi di qualcosa come un vuoto nella mente e nel cuore. L'ingiustizia suprema di una morte innocente, ingiustizia che morde, la cui ferita non è lenita da nessuna consolazione, da nessuna possibile giustificazione. E scrive poi Rondoni: di fronte a questo non si può girare gli occhi. Questa vicenda ci chiede, con la prepotenza che il cielo ogni tanto usa con gli uomini che dormono: voi, tu, a cosa state pensando veramente? A cosa state dedicando le vostre energie? Come si può stare in una vita che, come dice l'umile e grandiosa Lucia alla fine dei Promessi Sposi, conosce dei guai che arrivano senza che ce li cerchiamo, come i guai e le tragedie come questa? Cosa significa stare umanamente in questo frangente? E così, insomma, Davide Rondoni. Chiaramente fa molto male vedere anche le foto di tutti questi bambini che sono ritratti gioiosi sui giornali oggi e in realtà hanno affrontato questo viaggio che purtroppo per loro è conciso, per molti di loro, con la morte. Voglio chiudere con un qualcosa di leggero, su Repubblica, a pagina 23, quando devo chiudere? Tra 30 secondi? Ecco. Da aereo a manovrazione, l'italiano sfregiato nei temi della maturità. A pagina 23 l'allarme del ministero, scrive Salvo in Travaglia, 1 su 3 sbaglia i verbi. Questa è la maturità al liceo. Per esempio, la Terra è un pianeta sulla quale esiste la vita. Ma no, pianeta sulla quale. Il livello celebrale, no, il movimento del irridentismo, no, l'irredentismo, e poi lanciarsi dall'aereo. 24 mattino. Allora, ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci, sono le 8:22 minuti e voglio salutare il leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Intanto come sta? Perché insomma, è stato operato al cuore. Bene. No, questo è veramente un consiglio che do a tutti quelli che raggiungono poi una certa età, ma nel senso che dai 50 ai 60 anni bisogna cominciare i maschietti a farsi la controllatina al cuore. Nel mio caso è stato un caso di prevenzione primaria, vale a dire, senza sentire niente, mi hanno visitato e hanno visto che era bene fare un check-up coronarico e quindi ho evitato anche di avere poi infartini e qualche cosa varie. Tanto che ha comprato anche una pagina di giornale per ringraziare l'ospedale. Ma che perché vede, siamo abituati molto spesso, ed io tra questi confesso, a buttare via il bambino con l'acqua sporca. Ora, che nella sanità in Italia ci siano sprechi, approfittamenti, ruberie, inefficienze, incapacità, voglio dire sotto gli occhi di tutti, ma che ci siano delle eccellenze sia sul piano qualitativo, professionale, assistenziale, umano, funzionale, pure ci sono. E allora quando ci stanno, la cosa che più mi ha fatto veramente piacere, io sono andato in corsia come tutti gli altri ed è giusto che sia così, quindi io sono stato trattato identico a tutti gli altri e quindi questo rapporto umano e professionale di capacità che ho visto nei confronti di tutti mi ha risollevato nei confronti di una parte del sistema italiano, anche sanitario, che funziona. Senta, venendo alle cose di politica in cui lei si ritufferà subito e si è rituffato, stasera c'è questo vertice ABC da Monti, lei è geloso di non esserci, Monti? No, è giusto che sia così, in democrazia c'è una maggioranza ormai politica, anche se trasversale, forse necessaria. Io sono sempre convinto che prima si va alle elezioni meglio è, ma ormai il 2013 è la prima data utile, mi pare di capire, ma è giusto che ci sia un'opposizione anche per far vedere l'altra faccia della medaglia, anche per segnalare le cose che non vanno, anche per stimolare a fare meglio. In questo senso un'opposizione in Parlamento, nel Paese, rappresentata dall'Italia dei Valori, mi pare che sia un'opposizione a lungo tempo non preconcetta, sostanziale in alcuni casi, tant'è vero che noi diciamo anche sì a Monti, laddove vale la pena dire, laddove invece fa tasse e nessuno sviluppo, glielo diciamo in faccia. Per esempio, lei ha detto in faccia, io le dico, il ministro Fornero a me non dispiace, cioè nel senso è vero, rompe gli schemi, questa frase sulla paccata se la poteva risparmiare, però voglio dire, una che rompe la concertazione vecchia, no, non va bene. No, io ho molto rispetto per il ministro Fornero, sulle modalità con cui si propone non ho molto da sindacare, perché ognuno è quel che voglio dire dignitosamente ritiene di poter rappresentare, e certamente la ministra Fornero, voglio dire, è una persona di qualità e di eccellenza. Il problema, io contesto il ministro Fornero il merito delle proposte che fa, e il merito delle proposte che fa è un merito che... La linea, ma ogni tanto cadono le linee qua, siamo un po' sfortunati, vediamo se lo recuperiamo. Antonio Di Pietro, il leader dell'Italia dei Valori, insomma, che ti stava dicendo della Fornero, no? Ministro Fornero è contestato nel merito. Che succede? La linea è occupata. Adesso ovviamente no, suona, è libero. È il bello della diretta, ogni giorno, cari ascoltatori, succedono delle sorprese così, con linee che cadono. L'abbiamo recuperato? Ci stiamo parlando? Non si sa. Sì, ci stava, eccolo qua, l'abbiamo recuperato, ci stava parlando del merito, che ne so, sarà il ministro Fornero, l'ha sentita. Il ministro Fornero. Il merito, cosa è che non piace del merito? Velocissimo, dicevo, premesso quindi che del ministro Fornero io ho rispetto e anche stima, non contesto il merito, non le parole con cui lo dice, il merito è che non è che cambiando l'articolo 18 che l'Italia si rilancia l'economia e si rilancia e si combatte la recessione, ma è contrastando la corruzione, il malaffare, rilanciando dando incentivo al sistema delle piccole e medie imprese, andando a vedere cioè quali settore fa intervenire per rilanciare lo sviluppo, non è quelli 5-600 i licenziamenti per asserire giusta causa. Però ci saranno, ci sarà quella rigidità del mondo del lavoro che blocca un po' anche, cioè voglio dire, di corruzione si occuperà, che ne so, il ministro della giustizia. No, scusi, abbia pazienza. Io ho detto di corruzione, ma non è solo la corruzione. Le liberalizzazioni, voglio dire, io avrei preferito intervenire per cercare i soldi e per rilanciare il sistema Italia, avrei preferito dire alla BCE che quando le nostre banche vanno a prendersi paccate di miliardi all'1%, poi non lo ridiano al 5-7% al sistema, o non ci vanno a comprare i bot e quindi fanno soltanto speculazione finanziaria. Di Pietro, lei sta parlando come Alfano, lei sa che Alfano dice dai, le banche diano i soldi alla gente. Alfano, voglio dire, ha avuto parecchi anni insieme al suo capo di cambiarla questa norma, invece mi pare che sia stata a guardare. È troppo facile fare opposizione dopo che per 8 anni hai governato e non hai fatto quel che chiedi di fare come opposizione, voglio dire, bisogna guardarsi prima allo specchio. Senta, Di Pietro, Palermo, adesso lei mi deve dire perché ieri ho letto un comunicato un po' sibillino, cioè io non ho capito una cosa. Adesso le primarie di Palermo è stato stabilito che il vincitore è Ferrandelli, anche se ci sono stati dei brogli allo ZEL, ma non si cambia il risultato. L'Italia dei Valori cosa fa? Sostenete Ferrandelli, che è un vostro ex? Posso rispondere ovviamente dopo aver ascoltato ciò che hanno deciso a Palermo, perché sembrerà strano, ma anche l'Italia dei Valori ascolta quel che sono le decisioni prese a livello territoriale, nel nostro caso l'Italia dei Valori di Palermo e della Sicilia. Premesso questo, non mi voglio nascondere dietro un dito, io le dico quel che ho sentito in questi giorni anch'io al telefono, perché ovviamente stavo in ospedale, non stavo a Palermo. Detto questo, mi hanno assicurato, non i miei, ma anche gli arbitri che hanno dovuto giudicare, hanno assicurato che ci sono stati brogli, che ci sono stati interventi anomali tali da intervenire la magistratura, e insieme all'Italia dei Valori, non è solo l'Italia dei Valori, ma addirittura buona parte del Partito Democratico, SEL, Rifondazione Comunista, Verdi e gli altri candidati hanno dovuto constatare che vi è stato il trucco nel gioco, e quindi quando si bara, il risultato non può essere accettato. Certo, non può essere accettato, però cosa vuol dire? Perché il Comitato dei Garanti ha detto accettiamo questo risultato. No. Comitato dei Garanti, a me è stato riferito, e lei può andare a controllare, è stato riferito, abbiamo riscontrato che ci sono state le anomalie, le rimettiamo al tavolo politico per verificare se si può ritrovare una unitarietà su una figura condivisa. E secondo lei quale sarebbe questa figura? Rita Borsellino? Infatti Rita Borsellino è una persona di estremo rispetto, che io ammiro, stimo, e magari fosse lei, ma non spetta a me decidere. Certo, se dovessi decidere io propenderei per una figura di quel genere lì, perché in una situazione così delicata a Palermo un nome è una garanzia. Sì, però si vota tra un mese e mezzo si vota. Ma sia pur tranquillo che una coalizione riformista il giorno del deposito delle liste ci sarà e sarà sul piano del rispetto delle regole e soprattutto di persone che siano al di fuori, al di sopra da ogni sospetto. E allora facciamo un gioco, mi dica un sì o no. Se alla fine anche il partito, l'ultima parola sarà il candidato è Ferrandelli, voi che fate? Lo appoggiate? Candidate Orlando? Quale partito, scusi? Decide questo? Ma le sto dicendo che se lei vede anche dalla stampa di oggi, i partiti, già 4 su 5 hanno già dichiarato, dopo essersi unite nelle loro strutture dirigenti, che non va bene. Che non va bene. Quindi voglio dire, come dicessi, se lei fosse femmina farebbe figli, certo, ma non è femmina. Vabbè, quindi stiamo a vedere, è una situazione in evoluzione, un gran pasticcio, questo si è capito, un gran casino è successo. Però voglio ascoltare, diciamo, a livello personale, e dare anche un messaggio politico, quel che ha detto il mio medico. Guardiamo un po' la situazione del più ottimismo, forse ce la facciamo. Versione ottimista, Antonio Di Pietro, grazie per essere stato con noi. Leader dell'Italia dei Valori. Allora noi parliamo, dopo la pubblicità e il meteo, di matrimonio e di omosessualità, perché è entrato nell'agenda politica dopo che Alfano ha detto: arriva la sinistra, la spagnola, la Zapatero, matrimoni per tutti, anche per i gay. La Rosy Bindi del Partito Democratico ha detto no, noi non li vogliamo. Si è creato un dibattito all'interno del PD. Ieri l'Unione Europea, l'altro ieri, ha votato un qualcosa che è stato sdoganato su alcuni giornali. Vogliono, l'Unione Europea ci vuole imporre i matrimoni gay anche in Italia. 24 mattino. Allora, le 8:38 minuti, siamo in fatto di matrimonio per omosessuali arretrati rispetto a paesi europei come Olanda, Svezia, Spagna, Norvegia, Danimarca, dove sono consentiti in alcuni paesi anche in chiesa, oppure siamo rispettosi delle nostre tradizioni e dunque è giusto che i matrimoni tra omosessuali e matrimonio e omosessualità siano due parole che non si possono conciliare. Che ne pensate? 800 24 00 24, ne parliamo con Franco Grillini. Buongiorno Grillini, benvenuto. Buongiorno anche a voi. Consigliere regionale Emilia Romagna e dell'Italia dei Valori, responsabile dei diritti civili per il partito. Saluto invece da Bruxelles eurodeputato Carlo Casini del Partito Popolare Europeo. Buongiorno Casini. Buongiorno a tutti. Intanto chiedo a lei, Casini, perché ieri, o l'altro ieri meglio, al Parlamento Europeo di fatto è passata una proposta di una deputata liberale olandese che chiede un reciproco riconoscimento delle unioni omosessuali tra gli stati membri, come si fa, no? Reciproco riconoscimento tra stati. Ieri qualche giornale, il giornale titolava: hanno vinto i gay, arrivano i matrimoni gay in Italia. Onorevole Casini, lei è preoccupato su questo fronte? Certamente non condivido il voto, ho votato contro, ma prima di tutto credo sia necessaria una precisazione, anzi due precisazioni. Primo, ha detto bene lei il Parlamento Europeo, non l'Unione Europea come scrivono certi giornali. E il Parlamento Europeo da solo non fa nessuna legge, sì, in questo certo. Caso si trattava soltanto di un rapporto, cioè come è stato scritto da Avvenire, di uno spot, cioè non ha nessun valore giuridico, è una manifestazione di pensiero del Parlamento, non dell'Unione Europea. Il Parlamento Europeo non ha, sì, infatti non ha potere legislativo, il potere del Parlamento Europeo In questo caso nemmeno c'era l'intenzione, cioè è soltanto come ci sono le risoluzioni, le mozioni. Ma la seconda precisazione, mi pare che sia per la prima volta sento dire giustamente da lei una interpretazione, cioè non è che il documento, come dire, chiede a tutti di imporre il matrimonio omosessuale, ma chiede il reciproco riconoscimento tra gli stati che già lo riconoscono. Cioè che le leggi che riguardano il matrimonio omosessuale che esiste su Polonia e Olanda siano applicate anche in altri paesi che riconoscono matrimoni omosessuali, per quanto riguarda la disciplina del matrimonio. Quindi questo dal punto di vista tecnico. Dal punto di vista suo personale invece, che ne pensa di questo dibattito che è entrato anche nell'agenda politica italiana? Sì, io credo che lei parlava di arrestatezza, non arrestatezza. Io credo che la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo sia la parola d'ordine gloriosa della modernità, il progetto di futuro, non del passato. E nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo è scritto l'articolo 16 che la famiglia è il nucleo fondamentale della società e dello Stato, che come tale deve essere riconosciuto e protetto. Dunque sono parole che ho recitato a mente, e fondamentale vuol dire che senza la famiglia non esiste lo Stato, non esiste la società. Però la famiglia per lei è un uomo e una donna? Perché la famiglia per molti può essere anche due uomini o due donne. Io chiedo di riflettere sul carattere fondamentale. Un uomo e una donna che si sposano assicurano la generazione dei figli, o perlomeno è iscritto nella loro persona questa possibilità. Un matrimonio o un'unione omosessuale non ha questa possibilità. Quindi da dove deriva la fondamentalità? Dalla compagnia? Ma allora perché si può dire che un'unione omosessuale è fondamentale per la società dello Stato? Allora perché non considerare fondamentale qualsiasi altra compagnia? che può avere anche scopi umanitari altissimi, andare a lavorare insieme nel terzo mondo, assistere le persone senza che ci sia di mezzo la dimensione del letto. Allora, questa è il letto che fa la fondamentalità. Questa è la domanda che giro a Franco Grillini. Allora, la questione della possibilità, o meglio della impossibilità di procreare per una coppia omosessuale, questo è un discrimine, secondo Casini, importante per discernere cosa è famiglia e cosa non lo è. Grillini. Ma questa è una sonora sciocchezza, perché Casini sa bene che sono ormai centinaia di migliaia gli omosessuali con figli. È una considerazione da bar, non è una considerazione seria, perché addirittura esistono in tutto il mondo associazioni di genitori omosessuali, anzi adesso si pone il problema, oggi la Corte di Strasburgo sui diritti dell'uomo sta decidendo proprio sull'adottabilità da parte di una coppia lesbica del figlio di una delle due. La decisione la Corte la prenderà oggi. Sì, però Grillini, mi scusi, gli omosessuali sono generativi come tutti gli altri, sì, quindi questa è una grandissima sono generativi, però se uno interpreta la famiglia due uomini, quelli non possono procreare, su questo siamo tutti d'accordo. Le religioni, Casini fa politica a partire dalla religione, come gli islamici fanno politica a partire dalla Sharia. Allora, il problema qual è? Che le religioni non sono un trattato scientifico sociologico, sono un insieme di dogmi. Ci puoi credere o non ci puoi credere, non sono dimostrabili né niente. Allora, il punto qual è? Che in uno Stato liberale sono le persone che decidono cos'è o cosa non è famiglia, non lo decide Casini, non lo decide la Bibbia, non lo decide un mullah e non lo decide un prete, sono le persone nella loro totale libertà, perché altrimenti non c'è. Qual è la differenza tra democrazia e dittatura se le persone non hanno la possibilità di decidere la propria vita? Decidono le persone, sì, o lo decidono le istituzioni, lo Stato, i codici? La citazione sulla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, anche quella è una sciocchezza, perché la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo non dice che una famiglia è composta da un uomo e da una donna, come non lo dice la Costituzione italiana. Il punto qual è? Che possiamo essere tutti d'accordo che il nucleo fondamentale sia la famiglia, ma cos'è famiglia? Lo decidono gli interessati, Casini al posto degli interessati. È questa la questione. Casini, lei brandisce il verbo che ho usato io, la sharia, come se fosse la sharia, brandisce la religione cattolica per fare politica? Voglio dire, secondo me, inconsistenti. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che ho citato, non è stata scritta da preti o monache, non è stata scritta in Vaticano. Sì, però lì Casini, mi scusi Casini, in quella dichiarazione non c'è scritto che la famiglia è tra un uomo e una donna, questo è il punto. C'è scritto che la famiglia è il nucleo fondamentale. Sì, ma che sia formata da un uomo e una donna lo aggiunge lei, cioè è una sua interpretazione. Io, a parte che in molte costituzioni c'è scritto, per esempio l'ultima costituzione ungherese, che non è stata scritta nel Medioevo, ma è stata scritta proprio l'anno scorso. Ma a parte questo, io dico, è razionale o no chiedersi perché in un atto così importante come la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che vuole essere il progetto di pace, di libertà e di giustizia per tutto il nostro futuro, non scritto da preti, non scritto in Vaticano, c'è scritto che la famiglia è il nucleo fondamentale. È razionale domandarsi perché è fondamentale? Possiamo dire che perché è fondamentale la famiglia? Se è in grado di garantire il futuro. Non è fondamentale. Il punto una della unione procreazione. Che vuol far del bene al prossimo, anche se è un convento, un'unione laica, non è fondamentale per lo Stato, perché non è che garantisce il futuro dello Stato. Questo è il punto su quale lei insiste, insomma, la necessità, l'importanza di famiglia fatta da uomo o donna, perché è questo la base per poter garantire il futuro, quindi per poter procreare. Allora, i matrimoni omosessuali, ne stiamo discutendo con l'europarlamentare Carlo Casini dell'UDC, membro del Partito Popolare Europeo, e con Franco Grillini, che è responsabile dei diritti civili dell'Italia dei Valori. Grillini, lei ha detto cosa è famiglia, lo decidono gli uomini. Per Casini, per l'onorevole Casini, cosa è famiglia è chiaro, un'unione tra un uomo e donna. Lei dice lo decidono invece le persone, però le persone, Grillini, sono che cosa? Poi le persone che eleggono dei parlamenti e i parlamenti che stabiliscono. No, non è così? Sì, purtroppo il Parlamento italiano è dominato dai clericali a causa di questa bizzarra legge elettorale, ma insomma adesso il discorso qui sarebbe lungo. Sta di fatto che in Italia le leggi, per esempio quelle sul divorzio e quelle sull'aborto, avevano fatto uno schieramento laico che corrispondeva al fatto che anche in Italia i cittadini sono in prevalenza laici. Prova ne sia la ricerca del Censis pubblicata ieri dai giornali e resa nota ieri l'altro, che dice che certamente il principale valore tra gli italiani è la famiglia, sì. È una ricerca sui valori, sì, condivisi nel nostro paese, però sottolineava subito dopo che per famiglia gli italiani intendono tutte le famiglie, perché parliamoci chiaro, quando un nucleo di persone vive dentro un appartamento, dentro quattro mura, ha gli stessi problemi di tutti gli altri, l'affitto, le tasse, l'assistenza ospedaliera. Sì, però il discrimine per l'onorevole Casini è proprio quello, uguali, cioè uguali. La procreazione. Io vorrei dire, mi permetta, che l'esempio che ha fatto prima Casini è proprio un esempio sbagliato, quello dell'Ungheria. Oggi in Ungheria c'è una manifestazione in sostegno al governo ungherese dei nazisti di tutta Europa, dei nazisti. Qui siamo in presenza di un governo che rischia la procedura di infrazione, Casini in Europa dovrebbe saperlo bene, perché ha fatto delle leggi folli, sì, che limitano fortemente la libertà. Sì, l'Ungheria non è, non è stato lì, no. Casini esprime effettivamente quello che l'Ungheria effettivamente non è l'emblema in questo momento della democrazia più aperta, più occidentale. Però Grillini, la questione della procreazione quanto conta per lei? Me lo dico, perché lei ha detto ci sono omosessuali genitori, è vero, ma un omosessuale uomo per procreare deve andare con una donna, voglio dire, questo 100.000 omosessuali con figli. Ma mi scusi, favore, ma l'hanno fatto con le donne, però, cioè uno un figlio non lo fa a due uomini. Ma scusi, in questo momento ci sono 6 miliardi di individui del pianeta. Se il pianeta corre un rischio, se proprio vogliamo fare dire una cosa magari un po' sopra le righe, ma è la verità, è l'eccesso di riproduzione eterosessuale. Ah, quindi l'omosessualità... Siamo in 6 miliardi, ma vogliamo scherzare? Il pianeta sta per essere distrutto dall'eccesso di antropizzazione, dovremmo essere almeno della metà. Allora, se c'è qualcuno che i figli non li fa, un bene per il mondo, e comunque gli omosessuali sono generativi come tutti gli altri. Ma no, ma ho capito, Grillini, mi scusi, certo che sono generativi, ma il punto che dice Casini è che per generare un omosessuale uomo deve andare con una donna. Questa è la natura, voglio dire, non c'è altro modo. E questo per l'onorevole Casini è l'aspetto dirimente, no? Onorevole, è così, cioè l'aspetto... È l'aspetto principale, poi ci sono gli altri aspetti, ma io vorrei, per mettere definitivamente sul solido la mia osservazione, provo a fare un esempio paradossale: improvvisamente, per una qualsiasi ragione, tutta l'umanità diventa omosessuale, tutti. Questa sarebbe l'ultima generazione. Vabbè. Sarebbe lo stesso effetto della bomba atomica. La storia cadrebbe nell'assurdo. Il senso della storia è dato dal fatto che c'è la successione di generazione in generazione e che tutti tendono verso un futuro migliore per i figli e per i loro figli. Però scusi onorevole, allora, lei capisce anche lei che... È chiaro che anche gli omosessuali devono essere rispettati e sono uguali agli altri. Ho capito, però questo sono d'accordo per primo. Questo suo paradosso non regge molto, cioè è proprio un paradosso per estremo assurdo, onorevole Casini, voglio dire, per far capire. Però Grillini, cosa risponde questo a questo? Questo dimostra che Casini non ha argomenti. Perché il problema qual è? In tutto il mondo occidentale si stanno facendo leggi che riconoscono l'uguaglianza, qui c'è un problema di uguaglianza, perché un omosessuale è escluso da una parte del codice civile, ma è follia. Allora, se vogliamo l'uguaglianza tra le persone, non ci deve essere nessuna preclusione all'accesso a tutti gli istituti giuridici del codice anche civile. Il matrimonio. Invece per gli omosessuali un terzo del codice civile non vale. Sentiamo, allora, mi lasci il sentire. Punto, il punto in sostanza è fare in modo che le persone possano organizzare come credono la loro vita, perché una coppia omosessuale non tocca minimamente i diritti delle coppie eterosessuali. Questo è il punto. Le bugie, le menzogne che dicono i clericali da questo punto di vista, che se si riconosce il matrimonio gay si distrugge la famiglia tradizionale. Ma quando mai in Francia e in Svezia, tanto per fare esempi, con il riconoscimento, cosa è successo? Abbiamo il boom demografico, abbiamo un massimo di istituti giuridici riconosciuti, cioè il contrario di quello che dice Casini. Allora, siccome gli ascoltatori non c'è tempo, mi scuso con Roberto, Paolo, Samuele, ci hanno chiamato, sono lì in linea, ma il tempo è tiranno. Vorrei chiedere però all'onorevole Casini l'ultimo punto. Lei teme che questa, come dicono molti, l'idea di far passare le unioni omosessuali sia anche un modo per poi dire vogliamo le adozioni per i figli, per esempio, le adozioni di figli per le coppie omosessuali? Teme? Beh, certo, c'è anche questo secondo problema, il problema dell'educazione dei figli, che hanno bisogno certamente, come tutti gli psicologi sanno, di una figura maschile e di una figura femminile. Non sempre così, ci sono gli orfani, io per esempio sono rimasto ben presto orfano, ma questo non significa che l'ideale sia la presenza di una psicologia e di una dinamica maschile e di una dinamica Cioè, quindi l'ideale femminile. Per lei è un figlio che abbia un padre e una madre, un è uomo e una donna. Se, guardiamo le cose con gli occhi dei bambini, non con gli interessi degli adulti. Grillini, sono per la libertà e per l'eguaglianza di tutti, anche degli omosessuali. Grillini, però... ma nessuno deve mandare carabinieri a casa degli omosessuali. Per no, no, ma per carità, per carità, Grillini, mi dica in 10 secondi però su questo, la questione del... La regione Lombardia ha mandato la finanza a casa delle coppie che avevano chiesto i finanziamenti per le giovani coppie, ma andiamo. Dove siete al governo voi fate questo ed altro. Vabbè, insomma... La regione Lombardia ha mandato i finanzieri a casa, pensate voi. Questo comunque, non lo so, comunque. Allora... Questa storia dei bambini, i bambini hanno, io sono psicologo, sono laureato in pedagogia, i bambini hanno bisogno di qualcuno che gli voglia bene, punto. Non è sufficiente che, allora, noi vediamo nelle famiglie transessuali, una donna viene uccisa ogni 2 giorni in Italia, c'è una violenza pazzesca, allora non mi si può venire a dire che è sufficiente che ci sia una roba perché la cosa funzioni. Va bene, devo chiudere però, su questo tema torneremo, ve lo prometto, @AlinoMilan, il mio account Twitter, @24Mattino della trasmissione, e ci troviamo domani.